Siamo in collegamento telefonico con Elisa Palagi di I Wonder Pictures per parlare del film Rumble, il grande spirito del rock, un'uscita evento dal 19 al 21 marzo, un film di Katherine Bainbridge e Alfonso Majorana. Benvenuta e ben ritrovata. Grazie, ciao. Allora Elisa, per chi ci ascolta, lo descriviamo? Sì, certo, descriviamo Rumble, il grande spirito del rock, che è un documentario davvero travolgente che appassiona gli amanti della musica, facendo tra l'altro imparare e scoprire una serie di dettagli che non sempre sono conosciuti. Neanche tra i più fanatici del rock. Ci sono delle testimonianze, dei contributi video davvero, davvero originali, che ci fanno capire come la musica popolare, la musica nativa americana abbia davvero inciso in tutta la storia della musica popolare americana. L'influenza degli indiani d'America nella musica, nella grande musica americana che noi conosciamo, è molto più presente di quello che immaginiamo, perché è successo quello che poi è successo con tutta quanta la cultura, nativa americana, cioè che è stato fatto proprio un lavoro di rimozione e di insabbiamento della sua forza e della sua potenza e anche di tutto il suo valore artistico, ma in realtà le sonorità, i suoni, le melodie della musica nativa americana poi si ritrovano in tantissimo rock, folk, jazz che poi noi conosciamo. Sì. Oh, non solo questo, ma anche gli stessi artisti, sia donne che uomini, erano costretti a nascondere la propria origine e identità. Certo. E nel film vediamo come il film ci presenta il fenomeno proprio anche da un punto di vista culturale. Vediamo come ci sono state diverse fasi. Una fase in cui conveniva proprio non dichiarare di essere nativi americani per sfuggire a una vera e propria segregazione. Tanto è vero che alcuni nativi americani fingevano di essere neri, diciamo, di origine africana. Dopodiché, a un certo punto, sul finire degli anni 60, e grazie anche all'intervento di grandissime star, come uno tra tutti Jimi Hendrix, gli artisti sono riusciti piano piano a rivendicare la loro origine nativa americana e anche farne un punto di forza con una caratterizzazione in primo luogo artistica, ma anche politica, appunto. E penso per esempio a Bassi San Marì, che a un certo punto si è fatta proprio portavoce lei veniva da una riserva indiana e improvvisamente era ospitata in televisione, e quindi oltre al grande seguito che aveva sugli amanti della musica, aveva anche un grande seguito presso, appunto, tutta l'opinione pubblica. Questo è un caso poi abbastanza simbolico, perché a un certo punto hanno smesso di invitarla in televisione. Addirittura lei è stata indagata, dice, dall'FBI, dalla CIA, questo lo racconta nel film, e è stata un po' messa a tacere, fino a che poi lei è stata messa a tacere, diciamo, sui grandi media, ma poi ha continuato il suo lavoro di attivista e di artista. E adesso lo rivendica più che mai ed è tornata a cantare, a raccontare anche, appunto, le sue origini. Oltre a lei possiamo citare Robbie Robertson, possiamo citare il grandissimo batterista metal, Randy Castillo. Per esempio, Randy Castillo ne ha fatto sempre un vanto, e le sue sonorità potenti erano chiaramente legati al rombo del tamburo dei nativi americani, e quindi anche alla rabbia di un popolo che è stato poi, insomma, spazzato via da una cultura violenta. Sì. Ho un altro fenomeno interessante, anche un po' misconosciuto, che emerge dal documentario, è la mescolanza tra gli schiavi africani e i nativi americani costretti nelle riserve. Per cui si è creata una fusione che ha influenzato chiaramente anche le radici musicali, con una, appunto, una commistione di varie origini. Racconta come proprio a un certo punto siano stati mandati via i maschi, la parte maschile dei nativi americani, che è stata proprio deportata per fare spazio agli invasori, e quindi sono rimaste le donne. Al contempo sono stati portati invece negli Stati Uniti gli schiavi dall'Africa, e quindi chiaramente tra sfruttati poi si sono anche ritrovati a condividere i luoghi e a condividere la rabbia, e quindi sono nate tante famiglie miste. Soprattutto è interessante notare come infatti gli artisti che sono presenti nel film con origini native americane abbiano queste origini sempre da parte di madre. Jimi Hendrix aveva questa nonna nativa americana, nota anche per le sue capacità artistiche, per il suo ruolo importante di ispirazione nella musica di Jimi. Troviamo la sorella di Jimi Hendrix nel film che ce la racconta. E insomma, che noi quelle sonorità che associamo proprio anche al lavoro nelle piantagioni dei neri, non sappiamo che sono legate con un filo strettissimo alle sonorità invece che sono proprio dei canti di lavoro e di vita proprio quotidiana degli indiani d'America, che appunto poi si sono ritrovati fianco a fianco con i neri e hanno quindi avuto un ruolo di primaria importanza nella creazione di quel tipo di musica che poi noi riconosciamo. Dice il film che a un certo punto nel film dice che le sonorità native americane sono un soul, un pre-soul, un soul ante litteram, perché proprio sentimento proprio del soul, della disperazione, ma della disperazione non rassegnata, era presente appunto in tutta la musica dei nativi. Sì. Elisa, che tipo di distribuzione in 3 giorni ci sarà? Dunque, saremo come al solito nelle sale di tante città italiane, saremo a Bologna all'Odeon, saremo a Bologna anche al Pop-Up Cinema Palace di via Montegrappa, a Roma saremo al Cinema Barberini, a Bergamo al Capitol, te ne dico come al solito un po' così prendendoli qua e là, a Milano al Cinema City Life, a Torino al Cinema Romano, a Bari allo Splendor, a Firenze la Compagnia. Trovate comunque tutte le sale sul nostro sito all'indirizzo iwonderpictures.it/rumble. Perfetto. Elisa, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te Federico, un abbraccio. Ciao. Ciao.